Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16.34, Luca Tremolada, Luca Dello Jacopo, buongiorno. Buongiorno. Oggi raccontiamo una storia che per noi insomma è importante, è una delle tante storie che raccontiamo durante questa trasmissione, il terremoto del Cile. L'abbiamo analizzato dal punto di vista delle reti sociali. Esiste su internet una mappa digitale dove si possono segnalare quello che succede, dove si può cercare di dare una mano. Oggi cerchiamo di capire come funzionano questi social network. Cerchiamo di capire anche se funzionano e se è giusto affidarsi a loro, ma prima le news. Google di nuovo nel mirino per concorrenza sleale. Negli Stati Uniti un sito web ha puntato il dito contro il motore di ricerca per abuso di monopolio su internet. L'accusa è sostenuta da uno studio legale che difende anche Microsoft. Il fronte dell'antitrust si allarga per Google. La Commissione europea sta valutando 3 esposti contro il motore di ricerca più usato al mondo per violazione delle regole sulla concorrenza. Una segnalazione presentata a Bruxelles è arrivata dal portale tedesco Ciao, acquistato da Microsoft nel 2008. Un videogioco sportivo è stato pagato 30.000 euro durante un'asta su eBay. Si tratta di Stadium Events della Nintendo. Secondo stime ufficiose, nel mondo ne esistono soltanto 200 copie. È una rarità per gli appassionati. Il proprietario inizialmente voleva disfarsi del videogioco e inviarlo a un mercatino per la beneficenza. Poi ha provato con un'asta su internet. E su eBay ha trovato un generoso amante dei videogame. Passiamo all'ecologia. Batteri benefici proteggono dalle infezioni le vespe. Un gruppo di ricercatori tedeschi ha osservato le interazioni tra microorganismi sulla superficie dei bozzoli. I batteri producono 9 differenti antibiotici e difendono gli insetti da agenti nocivi. Le vespe scavatrici trascorrono parte della loro esistenza sottoterra, cacciano le api per nutrire le larve e sono attaccate da funghi patogeni durante il contatto con il terreno. Ma la simbiosi con i batteri le protegge da infezioni. Rieccoci in studio, 16.36, insomma noi abbiamo una scheda di Luca Dello Jacopo che un po' ci racconta dei fatti noti e poco noti di questo. A partire anche da un'idea che è appunto quella di una mappa, che è quella lì di Ushahidi che è quella lì di Ushahidi, diciamo, cioè, raccontiamo meglio poi di cosa si tratta. Allora, l'indirizzo internet è Cile scritto con la H, quindi chile.ushahidi.com. Ushahidi è scritto USHAHIDI. E poi lo mettiamo sul Twitter di Novalab24, per cui insomma sarà cliccabile. Ma prima sentiamo la scheda che ci fa un po' il patchwork di quello che sta succedendo. Un terremoto ha devastato il Cile. Le scosse hanno raggiunto 8,8 gradi sulla scala Richter. È il settimo sisma più grave mai registrato. In poco tempo sono arrivate le prime segnalazioni su internet. Brevi messaggi per descrivere la paura e i danni più visibili. In 2 giorni un gruppo di volontari ha pubblicato sul web una mappa per descrivere gli effetti del terremoto. Un gruppo di cartografi digitali è aperto. Ogni persona può segnalare sulla cartina le emergenze e il nome delle persone disperse durante il sisma. Una mappa simile è stata sperimentata anche in seguito al terremoto di Haiti. Ma internet aiuta anche la raccolta di fondi. Dopo il disastro sull'isola dei Caraibi, il passaparola sui social network come Facebook ha facilitato gli appelli per donazioni. Anche i videogiochi hanno contribuito. Gli utenti della fattoria digitale di Farmville hanno versato 1 milione di euro. Alcune persone però hanno diffuso anche voci false su internet. Per giorni è apparsa la notizia di voli gratuiti offerti a medici e infermieri diretti sull'isola colpita dal sisma. E gli utenti dei social network hanno smascherato la menzogna. Sì, allora, come avete sentito, insomma, c'è un aspetto di autoaiuto della rete, cioè gli utenti dei social network smascherano alle volte, non sempre, le truffe e allo stesso tempo collaborano a creare queste mappe che sono, non sappiamo quanto credibili, però sono assolutamente interessanti. Assolutamente sì, perché arrivano delle informazioni dal campo. Allora, in questo momento la mappa sul Cile è in aggiornamento, è possibile vedere però cliccando sui cerchietti rossi quali sono poi diciamo, le segnalazioni che arrivano. C'è una mappa equivalente che riguarda anche Haiti, Queste segnalazioni sono inviate dalle persone, quindi sul campo, che dicono quali sono i danni in una determinata zona. Vanno anche a segnalare se ad esempio hanno visto qualcuno, se ci sono delle notizie sulle persone scomparse. Su questa, accanto alla mappa, poi ci sono gli aggiornamenti di Twitter, che ricordiamo è questo microblog con cui vengono poi descritti in 140 caratteri. Perché di solito, almeno se uno guarda solo, si limita a guardare solo il telegiornale, non lo dovrebbe fare, ma insomma, di solito è uno spazietto all'interno della notizia, quello di Twitter. Di fatto è anche un modo per guardare forse un po' più da vicino queste tragedie, questi eventi, e capire anche come può dare una mano, come può interagire, se c'è qualcosa che può mettere a fattor comune. Sì, non ci sono quindi solo le informazioni che vengono appunto da chi è coinvolto direttamente nei soccorsi, ma ci sono tutte le persone che possono dire, portare una loro testimonianza. Tra l'altro, quindi... ho trovato interessantissimo, ma il fatto di Farmville, noi ne abbiamo già parlato nella puntata, questo diffusissimo, popolarissimo gioco su Facebook. Sono 80 milioni di utenti nel mondo, che insomma a un certo punto smette di essere videogioco e comincia a dedicarsi alla raccolta di fondi. Poi lì bisognerebbe capire se vanno veramente. Come arrivano, sì. Però se ti ricordi appunto nei giorni del terremoto di Haiti appariva questo messaggio connettendosi a Farmville che diceva: noi stiamo raccogliendo dei fondi, se li volete inviare versateli con la carta di credito, con una prepagata. Ecco, diciamo che la sfida è capire se i soldi arrivano a disposizione nel luogo giusto, nelle mani giuste, nei tempi giusti, anche perché, come hai visto e scoperto tu, all'interno di Twitter c'erano anche persone che vendevano voli che non c'erano, voli gratuiti che non c'erano, perché è facilissimo poi che si diffondano voci false, non potendo poi controllare quello che succede. Però è anche vero che ci sono tante altre persone che magari sono coinvolte poi direttamente in quello che sta succedendo, che possono dire questo è falso, ma c'è sempre quel periodo in cui le due versioni non collimano. Sì. Infatti noi siamo in collegamento con Paolo Ferrara di Terre des Hommes. Buon pomeriggio. Chiaramente lei è uno degli attori in campo di questi processi, per cui la prima domanda è che cosa sta succedendo. Siamo sulla cronaca in Cile, che cosa sapete voi? Ma quello che sappiamo è quello che ci dicono i nostri colleghi di altre organizzazioni, in questo caso perché Terre des Hommes non è presente direttamente sul campo, e quello che in realtà ci dice la rete, perché una delle cose che abbiamo tutti quanti scoperto, devo dire anche noi che nel settore ci lavoriamo, è quanto un network sociale come Facebook in particolare, ma anche gli altri network sociali, siano diventati fonti di informazione anche al di là degli stereotipi. Io faccio semplicemente un esempio: nei primi giorni dopo l'emergenza di Haiti qui si avevano pochissime informazioni su quello che stava accadendo e anche su quello che stavano facendo le organizzazioni internazionali. Se voi andavate su Facebook o eventualmente anche usavate altre applicazioni come per esempio iTunes, potevate accedere a una marea di informazioni o direttamente di fonte da parte delle organizzazioni non governative presenti sul campo o di altri telegiornali di altri paesi che magari avevano già inviato corrispondenti sul campo. E questo è un mare di informazioni a cui non eravamo abituati e che hanno in qualche maniera catapultato nel cuore dell'evento milioni di persone che prima avrebbero dovuto aspettare alcuni giorni per essere informati. Questo ha anche permesso e sta permettendo in queste prime ore anche di emergenza Cile di avere informazioni aggiornate sul campo, a volte ben prima dei telegiornali, di quello che sta accadendo. È chiaro che questo poi ha anche dei rischi di esagerazione, a volte di informazioni che sono ovviamente centrate su alcuni punti di vista specifici, quindi incomplete, però sicuramente è una ricchezza che fino a qualche tempo fa non avevamo e che l'emergenza Haiti ha dispiegato in tutta la sua potenza per la prima volta. Ha portati diciamo lì sul campo, è questo in effetti che intendiamo con segnalazioni? Io non ho colto la prima parte della domanda perché mancava la linea. Se ho ben capito, però, il punto è proprio quello del fatto che internet e soprattutto il web 2.0 permette di creare dei ponti fra il mondo dei nostri donatori e delle persone che comunque sono interessate anche a fare volontariato, perché in questi nel caso dell'emergenza Haiti molte persone sono partite a titolo volontario per portare aiuto, e i beneficiari che in quel momento erano a molte migliaia di chilometri di distanza. Si accorciano le distanze perché? Perché le informazioni che arrivano sono informazioni che raccontano storie delle persone, sono fotografie anche fuori dalle censure a cui spesso i grandi media ci abituano, perché alcune immagini non si possono mostrare, perché tutta una serie di altre informazioni. Ecco, però questo è un tema, nel senso che poi di fatto l'obiettivo è quello di raccogliere soldi, non è tanto quello di spaventare l'utente. Beh, poi sul tema delle immagini, i grandi media chiaramente hanno delle regole, per cui insomma noi giornalisti abbiamo delle regole per cui i bambini non li possiamo pubblicare, insomma c'è tutta una regolazione abbastanza stringente. In questo senso non credo che la gara sia quella di rincorrersi o di scambiarsi tra i ruoli. Tutt'altro, non si tratta di scambiarsi i ruoli. Le informazioni che arrivano dalle organizzazioni sul campo non sono organizzazioni che possono sostituire, certo, l'informazione giornalistica, non peraltro perché il tipo di approfondimento non è lo stesso, perché sì, tra virgolette non siamo completamente, neanche super partes. Esatto, sono missioni completamente diverse, chiaro, ma super utili. Nova Lab 24. Rieccoci in onda, 16:47, siamo con Paolo Ferrara di Terre des Hommes, a cui faccio una domanda che può essere un po' infantile, cioè, ma com'è che fanno, com'è che si fa a capire a chi affidarsi utilizzando i media sociali? No, questa è una domanda sempre molto complicata. L'indicazione che diamo in genere come organizzazioni è intanto quello, anche sui social network, di tenere sempre in considerazione che le notizie vanno confrontate il più possibile, e questo vale anche per le attività delle organizzazioni non profit. E ci sono indicatori che sono legati al numero di contatti, al numero di alla qualità anche di questi contatti, ma direi che è sempre importante andare a cercare le fonti anche altrove. I casi che sono stati segnalati di organizzazioni che hanno raccolto fondi, in alcuni casi erano molto semplici da individuare. Faccio un esempio: è partita un'email che a nome di Villaggi SOS Germania, ma era chiaramente identificabile dal mittente che non si trattava di Villaggi SOS, anche se poi le fotografie utilizzate erano ricavate dal sito di Villaggi SOS. Certo. Per cui alcune indicazioni ce le abbiamo. Quando raccogliamo informazioni su Facebook, social network, controlliamole e verifichiamole sempre con i siti internet delle organizzazioni stesse, quelli istituzionali, anche perché sappiamo che su Facebook, come su altri social network, è sempre possibile una sorta di furto di identità. E quindi quanto tempo passa dal momento in cui arrivano le donazioni al momento in cui poi quelle donazioni si possono utilizzare per interventi sul campo? E questo dipende dai vari casi. Allora, considerate una cosa: nel caso dell'emergenza Haiti, in realtà alcuni interventi sono stati fatti prima che arrivasse un solo centesimo, semplicemente perché l'intervento di prima emergenza è quello legato alla distribuzione di tende, di kit igienici alimentari, ma anche lo stesso invio di esperti è avvenuto prima che arrivassero i fondi. Quando invece pensiamo alla ricostruzione vera e propria, quindi ricostruzione di edifici, scuole, in questo caso orfanotrofi, o edifici comunque anche strutture di servizio, i mesi potrebbero essere tanti, anche perché non dipendono esclusivamente dalla volontà delle organizzazioni non profit, ma dipendono anche dal coordinamento e dai permessi che le istituzioni locali possono dare. Ecco, Ferrara, senta con noi la scheda di Luca e dello Jacopo su social network Kiva e poi la commentiamo insieme. Solidarietà, internet e globalizzazione. Il social network Kiva ha distribuito finanziamenti a 300.000 piccoli imprenditori nelle nazioni povere. Gli utenti sul web hanno contribuito con piccole somme di denaro. Le quote raccolte ammontano complessivamente a 90 milioni di euro. Grazie ai fondi ottenuti dal social network, i piccoli imprenditori hanno aperto attività commerciali nei paesi in via di sviluppo. Kiva è una delle comunità più note per il finanziamento attraverso internet. È un fenomeno definito crowdfunding. A ispirare i fondatori di Kiva è stata la lezione del premio Nobel per l'economia, Muhammad Yunus. Negli anni 70 il banchiere bengalese ha iniziato a prestare piccole somme di denaro alle donne nei villaggi rurali. Erano i primi passi del microcredito. e adesso è arrivato su internet. Allora, Ferrara, com'è che ci si misura con queste realtà sicuramente innovative e completamente nuove però nel panorama dell'aiuto? Ci si misura cercando di prendere un esempio dalle cose migliori che organizzazioni come Kiva hanno fatto. Di fatto Kiva cosa ha fatto? Ha utilizzato internet per le sue qualità migliori, come dicevo prima, la possibilità di abbattere i ponti, di colmare le distanze. Per la prima volta un sito internet mette di fronte ai donatori, prevalentemente online, tra l'altro dimostrando che online si possono raccogliere i fondi, con storie di persone che possono essere monitorate nel tempo, quindi si avvicinano le distanze. Secondo aspetto, internet in questo caso ha permesso di abbattere alcuni costi, per cui i piccoli imprenditori sul posto, nel caso di Kiva, possono chiedere prestiti a tassi più bassi di quelli a cui normalmente vengono costretti anche con attività di microcredito sul posto. Terzo aspetto, ha permesso alle persone di scegliere se essere soltanto prestatori di denaro, che è quello che accade nella formula base di Kiva, o donatori di denaro. Nel caso di Kiva in realtà la relazione di fiducia che si è creata tra Kiva, i beneficiari dei progetti e i donatori ha permesso in realtà che di trasformare la maggior parte dei prestatori di denaro anche in donatori. Ecco, ricordiamo anche che poi chi presta denaro con Kiva in questa formula se lo vede anche restituire. Anche io per esempio ho prestato denaro, una piccola cifra, erano 25 euro, l'equivalente di 25 euro con Kiva, e poi me li hanno restituiti, è stato prima ripagato l'intero debito e poi mi è stata restituita la cifra dopo un anno circa. Esattamente, in più chi vuole può aggiungere una quuota di donazione e nella stragrande maggioranza dei casi questo è avvenuto perché il rapporto di fiducia che si crea fra i prestatori, tra virgolette, e uno strumento così trasparente di raccolta fondi fa sì che poi che volentieri si aggiungano altri soldi a titolo di pura donazione. E segue anche poi la storia, in effetti, no? In quel caso era una persona che aveva un negozio in Sud America ed aveva bisogno di un prestito per ampliare il negozio. E quindi ti arrivano le foto e segui l'intera storia. E poi arriva una sorta di rendicontazione. Ecco, questo è un modello che indipendentemente dal fatto che si stia lavorando sul microcredito e quindi su forme di prestito o sul finanziamento di progetti, le organizzazioni dovrebbero seguire. Seguire attraverso strumenti di rendicontazione immediata, fotografica, ma anche di altro tipo, e seguire anche utilizzando sempre più i social network come modello di aggiornamento. Grazie Paolo Ferrara, il nostro tempo è breve ed è finito. Io ringrazio Paolo Ferrara, appunto, ringrazio anche te Luca, che tra l'altro ci troviamo domani alle 16:30, per cui insomma è un arrivederci.